Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Noi siamo pronti, abbiamo Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, come sempre Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire i temi di oggi. Così piccoli e così timidi, parliamo dei nostri bambini. Buone nuove dalla ricerca, scoperto un interruttore molecolare per spegnere il diabete. Sciogliti con il Pilates. Dai, coraggio, forza, saluta la signora. Non rimanere da solo, vai a giocare. Non essere così timido, ma di cosa hai paura? Anche voi ve lo siete sentite dire quando eravate piccoli, o forse invece siete voi a dirlo ai vostri figli. Oggi parliamo proprio di loro, di bambini timidi, di quelli di ieri e di quelli di oggi. Questo è il tema che è stato scelto dalle mamme blogger che ogni mese, al secondo martedì del mese per l'esattezza, occupano, tra virgolette, essere e benessere con la loro vitalità, i loro progetti, i loro problemi. Molte di loro sono in vacanza con i loro bambini e in linea, in veste da corrispondente, diciamo così, delle mamme vacanziere, Yolanda. Ciao Yolanda. Ciao a tutti. Problemi di timidezza in casa, in spiaggia, sì, in montagna? Direi abbastanza, perché tu sai che io ho tre bimbi. Sì. Di cui due bambine e poi il maschietto nel mezzo. E naturalmente lui, essendo nel mezzo tra queste due che di timidezza non sanno neanche di che cosa sia, lui invece è abbastanza timido, ecco. Vedo già che tu attribuisci quasi, no? la colpa alle bambine, eh? Ma adesso proprio una colpa no, però è vero che lui, sentendosi così sempre tirato, trainato, ma dai, delle volte si chiude ancora di più, Variccio, quello sì. È anche il secondo di tre figli, quindi sì, un esatto. Po' è la classica fetta di prosciutto, no? Esatto. Vengono, per cui preso dalla esatto. Sorella grande, dalla sorella piccola. Chiediamo subito conferma anche ai nostri amici da casa per 824-0024, se volete intervenire e raccontarci le vostre storie, i messaggi al 349-238-6666. Già Yolanda ci descrive una situazione tipo: tre figli, unico maschio con due sorelle, le sorelle lo soffocano un po', insomma, e lui reagisce chiudendosi a riccio. Ma voglio ripresentarvi anche gli ospiti di oggi. Naturalmente è tornata a trovarci la dottoressa Manuela Trinci, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Buongiorno. Buongiorno a tutti e felice di ritrovarvi. Qua in studio con me, abbronzato, è ritornato da un weekend vacanziero, anche lui ci dovrà raccontare che cosa ha visto in vacanza con mamme e bambini alle prese con la timidezza, Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Di questi tempi la timidezza, penso, rischia di essere considerata un difetto, no? Un handicap del carattere, perché siamo ormai portati a pensare che la realizzazione di sé sia il frutto non tanto di competenza quanto di grinta e competizione. Con i bambini timidi di ieri, quelli che oggi sono adulti, si era forse più generosi, perché la timidezza era anche un segno di rispetto e buona educazione. Dottoressa Trinci, io vorrei iniziare la trasmissione con questo confronto tra ieri e oggi. Certo, io penso che quello che lei diceva sia profondamente vero. In questo mondo così competitivo, dove vince sempre più forte, tutto sommato, i bambini timidi, i bambini più emotivi, i bambini più fragilini, così, sono dei bambini che rischiano un po' l'insuccesso, rischiano di non piacere, tanto che davvero negli Stati Uniti la timidezza viene curata, come diceva lei, come se fosse proprio una malattia. Allora, io credo che si debba un pochino capire fra di noi, insomma, con i genitori e proprio nel lavoro che si fa anche quotidianamente con i genitori, se timidi si nasce o si diventa. Ecco, io farei un po' questa differenziazione qui, anche per riprendersi delle responsabilità e riprendersi anche delle possibilità di modificazione nel caso di eccessi di timidezza. Io credo che ci siano davvero dei bambini, per quello che è appunto la mia esperienza, che sono di temperamento più emotivi, dei bambini più iperemotivi, come vengono chiamati. Questa iperemotività dei bambini li rende più sensibili agli stimoli esterni, e certe volte li fa reagire anche in una maniera eccessiva, come se fossero bambini un po' senza pelle, e senza protezione, quindi è già proprio nella primissima infanzia si vede questo, sono bambini che per esempio rispondono anche su un piano neurovegetativo, sono bambini che certe volte gli batte più forte il cuore, sono più facili al rossore, hanno delle reazioni diciamo così somatiche, così come gli dà fastidio la luce più forte, il caldo, il freddo, e quindi così come certe reazioni più emozioni più primitive come il piacere, la rabbia, il dolore, la sorpresa suscitano in lui reazioni più accentuate sia nell'intensità che nella durata. Quindi noi abbiamo la possibilità di un osservatorio che ci dà l'idea se quel bambino lì sia più emotivo o meno di un altro. In questo caso è un bambino che poi tende a diventare un bambino timido. Bisogna stare attentissimi però in casa a non dare alcuna etichetta di bambino timido. Ecco, questo non va rafforzata. Questo è importante. C'è un bellissimo libro, Il bambino timido, di Erickson Editore, in cui gli autori che hanno preso in rassegna tante ricerche proprio sulla timidezza in un punto dicono non permettere a nessuno di dire che tuo figlio è timido e soprattutto non permetterlo neanche a te, che sei suo padre e sua madre che lo ami. Noi siamo facili alle etichettature, diventano poi dei marchi che sono difficili poi da scrollarsi. 800 24 00 24, chiedo conferma anche ai miei ascoltatori, qualcuno di loro proprio da piccolo è stato etichettato bambino timido, ci racconti come è riuscito a liberarsi di questo marchietto, oppure quanto l'essere definito timido l'ha in qualche modo messo in difficoltà. Ma Alberto, prima di discutere se e come si possano aiutare i bambini timidi e direi i loro genitori a non sentirsi diversi o in difetto, proviamo a mettere la timidezza sotto il microscopio per analizzare quali forme assume, quali esperienze la innescano e che effetti produce nelle relazioni quotidiane. In altre parole, quello che voglio chiederti è proprio di indirizzare i genitori all'ascolto a osservare la timidezza nelle sue mille sfumature. Allora, direi intanto di cominciare a capire bene cosa non è la timidezza, perché riprendo proprio alcune delle frasi che abbiamo sentito ad inizio trasmissione. Dai, coraggio, forza, non rimanere da solo, vai a giocare, staccati dalla mamma. Cioè, molte volte una delle cose che è tipica dei bambini, che è un po' l'ansia da separazione, soprattutto quando sono piccolissimi e perciò devono essere per esempio messi all'asilo nido oppure i primi ingressi alla scuola dell'infanzia, vengono da molti genitori confusi con io ho un bambino timido che non si vuole mai staccare dalla mamma, che è sempre attaccato alle mie gambe, oppure anche prova proprio come citavi tu, proviamo a immaginare un bambino che entra in un villaggio vacanze per la prima volta a 4-5 anni, non ha ancora competenze relazionali e sociali tali da diventare un piccolo leone. Classica situazione della baby dance alla sera, suona la musica, tutti i bambini vanno in mezzo al palco a ballare, questo bambino male. Appena arrivato viene spinto dai genitori, fai anche tu come tutti gli altri, e il bambino rimane invece lì dove ha il senso di protezione e sicurezza. Questa non è timidezza. Ci sono bambini che già di temperamento possono probabilmente dal primo minuto buttarsi nel gruppo. Altri bambini che hanno invece un altro stile, un'altra modalità, devono studiare la situazione, devono prendere contatto con l'ambiente, con i nuovi stimoli e poi pian piano fanno il loro percorso verso le nuove esperienze. Allora, questa non è timidezza. La timidezza in generale è una situazione in cui un bambino che si trova in un gruppo e socialmente conosce quel gruppo, sa chi c'è lì, ne ha le misure, proprio le coordinate, non riesce a fare quello che desidera fare o mettersi bene in relazione con gli altri, perché sperimenta proprio un senso di inibizione, di freno al suo desiderio di dire e di fare. È un po' come dire gli manca dentro la forza per mettersi in gioco. Il difetto fondamentale, oltre proprio a questa ipersensibilità, tanti stimoli che gli arrivano dall'esterno e che lui sintetizza meno di un altro bambino, è forse che fa più fatica a apprendere e mettere in gioco competenze sociali, può essere preso per mano e con calma rassicurato, ma ha sempre bisogno di una sorta di base stampella. Sicura, esatto, e l'adulto deve avere quella funzione, cioè un buon adulto che riconosce in questo bambino un temperamento diverso da tutti gli altri e sa rassicurarlo e pian piano guidarlo verso le attività che ci si aspetta da lui, probabilmente gli dà poi quel piccolo pezzetto di forza che il bambino non ha dentro e con cui riesce rassicurato a fare tutto quello che fanno gli altri. Quindi ritorniamo, Alberto, sul ruolo dei genitori, che è molto importante, no? Perché certo, i genitori devono comunque accompagnare, possono fare davvero la differenza. E dire a un bambino tu sei timido e mettere un'etichetta che aumenta il senso di vergogna, di paura e di inibizione. Dire ad un bambino con me ce la puoi fare, oppure con calma ce la possiamo fare, ci fa sentire come una squadra e non come una zattera in mezzo a una tempesta abbandonata nell'oceano che deve ritrovare la rotta. E direi che ci sono stati dei genitori davvero in gamba, sono Fiorella e Beppe, mamma e papà di una bambina timida, piccolina era timida, oggi una professionista poliedrica di grande talento, di grande successo, modella Miss Italia, presentatrice, ballerina, bellissima, Cristina Chiabotto. Ciao Cristina! Ciao, buongiorno a tutti! Cristina, tu da piccola eri una mammoletta, ti ricordi quali erano le situazioni che ti creavano maggiore imbarazzo? Ma io avevo difficoltà principalmente nell'approccio con le persone, con i miei coetanei, quindi come avevate detto prima, nelle situazioni di gruppo trovavo forti difficoltà nell'approcciarmi con le persone che erano accanto a me, non avevo quella forza per aprirmi del tutto. Senti Cristina, ma diventavi rossa come un pomodorino, ti chiudevi in un silenzio ostinato, andavi via, come reagivi a questa tua difficoltà? Ma io avevo questa ipersensibilità che appunto ricevevo dalle situazioni esterne e mi chiudevo in silenzio, non parlavo più di tanto, cosa che sembra molto strana visto il lavoro che ho preso poi con a lungo andare, però non riuscivo a parlare, ad espormi con le altre persone, quindi mi chiudevo con questa forte ipersensibilità dentro me stessa. Senti Cristina, noi abbiamo iniziato a sottolineare quanto possa essere importante avere dei genitori a fianco che ti fanno capire che quella sorta di naturale ritrosia non è un difetto, ma se vogliamo una peculiarità, e come tale può essere, no, coltivata, non soffocata, anzi diventare forse una marcia in più quando si è certo, grandi. Come sono riusciti i tuoi genitori? Adesso, a distanza di tempo, che cosa ha fatto la differenza? Ma ha fatto la differenza sicuramente loro prendermi per mano e accompagnarmi durante la mia infanzia in queste situazioni e nei miei rapporti sociali, quindi essere al mio fianco senza nessuna forzatura, ma accompagnarmi nel mio percorso di vita con molta serenità e con grande grinta, trasmettendomi comunque voglia di comunicazione, voglia di stare in mezzo alla gente, quindi mi hanno preso per mano e mi hanno accompagnato durante la crescita e questo è stato importantissimo, il loro ruolo, perché hanno compensato alcune mie lacune, tra virgolette, perché poi è stato un lato molto positivo che mi ha permesso poi di fortificarmi con il tempo. Senti Cristina, prova un po' a pensare alla timidezza come ad una persona con cui hai avuto a che fare. Oggi di lei diresti: ho chiuso definitivamente, oppure la tengo a bada, o ancora ho imparato ad apprezzarne i lati positivi. Sicuramente la terza, ho imparato ad apprezzarne i lati positivi, anche se oggi non è un aspetto caratteriale che mi appartiene più di tanto, perché ho superato questo attimo durante la mia infanzia e quindi per il momento ciò che arriva della mia persona è tutt'altro, un impatto sicuramente molto più socievole e solare che poi quello che si intravede durante e tramite il mio lavoro. Senti, prima di salutarti, ai genitori dei mammoli che cosa raccomandi? Quali indicazioni potresti dare? Un consiglio? Ma io non sono genitore, quindi non ho ancora ricoperto ruolo, però sicuramente penso che stare a fianco al proprio figlio e accompagnarlo senza trasmettergli altre insicurezze, quindi aiutarlo in questo percorso di forte timidezza, sia la cosa migliore, senza troppe forzature o impuntarsi su situazioni troppo grandi per i propri figli. Cristina, ti abbraccio, grazie per essere grazie stata con noi, buona giornata. Buona giornata anche a te, grazie a tutti. Grazie. Ciao. Dottoressa Trinci, la storia di Cristina insegna che Insegna che sicuramente la funzione importante del contesto nel quale il bambino vive, no? Però guardate, non sono tutte rose e fiori, io mi sento di dire, vedendo e lavorando tantissimo con i genitori, perché certe volte la timidezza è anche un pochino il ponte che lega la storia dell'infanzia dei genitori alla storia del bambino. Infatti molti genitori di bambini timidi esordiscono dicendo: anch'io da piccolo ero timido. Ecco, se noi si va a vedere i bambini grandi timidi, diciamo così, bambini che proprio si ritraggono, hanno paura del confronto con gli altri, hanno paura di mettersi in gioco, no? Quindi bambini che davvero, per esempio, la storia di Cristina è una storia tipica di certi timidi che stanno da una parte, guardano, osservano, hanno una ricchezza interiore fortissima e da grandi poi riescono sbocciano a farne delle doti. Quindi questo è sicuramente un aspetto, ma c'è l'altro, che è invece di quelli dei timidi che non guariscono. Allora, questi timidi che non guariscono, fra virgolette metto guariscono, vengono a riproporre poi questa stessa modalità di rapporto con gli altri nei confronti dei figli. E allora per i bambini diventa davvero difficile, perché hanno spesso famiglie dove si dice, vabbè, insomma, nel nostro guscio tutto sommato si sta bene. Allora, intanto io attivo Yolanda, la nostra corrispondente dalle mamme in vacanza. Che cosa stanno chiedendo, che cosa si stanno raccontando, quali bisogni, quali richieste di aiuto manifestano, Yolanda? Allora, io, se volete, ho una domanda che mi è parsa in particolare, che mi ha fatto Eli attraverso il sito blogmamma.it. Sì. E mi è parsa particolare perché Eli mi dice che lei ha un bimbo di 11 anni che fino all'anno scorso era bello tranquillo, disinvolto e senza problemi. Sì. Invece da quest'anno, siccome è chiuso a riccio, non vuol più far nulla da solo, a meno di essere accompagnato da persone che conosce o da essere oppure di essere in un gruppo di persone che lui conosce bene, e vuole sempre essere accompagnato. E lei mi chiede: ma io cosa devo fare? Insistere che lui vada da solo e si slacci, come ha sempre fatto, oppure lo asseconda? Esatto, oppure assecondarlo, perché magari è un momento di passaggio. Insomma, come devo fare, mi chiede. Allora, Alberto, perché poi abbiamo Gabriella dalla provincia di Milano e Isabella da Parma. Ricordo il nostro numero verde, se siete stati timidi, 824 0024. Se avete un figlio timido, il numero è sempre uguale, ma potete anche inviarci messaggi al 349 238 6666. Una timidezza un po' tardiva, sembra, no? Che cresce, nasce all'improvviso in un bambino che sino a 11 anni è stato un bambino assolutamente socievole, non timido. Direi che però l'età è proprio quello che fa la differenza. 11 anni è il momento in cui si passa da bambino a preadolescente, si deve lasciare la famiglia, si deve entrare nel mondo e aderire a un gruppo di amici, e questo è un cambiamento fondamentale, non lo si deve imparare a fare. E quindi direi che questa, più che una timidezza, è un'insicurezza di un figlio che si accorge che sta facendo un gran salto in avanti nella vita. Si accompagna o non si accompagna? Allora, lì bisogna un po' puntare sui e conoscere i punti di forza di nostro figlio, fino a dove può arrivare. Io non sono mai dell'idea di far fare strappi e forzature rubate ad un figlio se la nostra pancia ci dice, come genitori, sento che non ce la fa. D'altro canto, questo non significa allora proteggerlo ad oltranza, cioè bisogna avere in testa una sorta di programma in cui il nostro figlio da qua ai prossimi 6 mesi sarà capace di uscire da solo e di andare là dove il mondo lo aspetta. Allora, quali sono i gradini intermedi che insieme a lui dobbiamo fare per consentirgli di acquisire questa libertà? Potrei, per le prime volte, accompagnarlo e dirgli che per una settimana ti accompagno, poi ti avvicino, poi cominciamo insieme a te a progettare, prima che tu esca di casa, quali sono le fatiche che potresti trovare nel fare tutto da solo, e vediamo come a distanza ci possiamo tenere in contatto, magari con un cellulare. Faccio un saltino a trovare Gabriella, 824 0024, un saltino perché ci chiama dalla provincia di Milano, è vicina. Gabriella, buongiorno. Buongiorno a voi. Già ascoltando un po' quello che avete detto, ho ricevuto delle risposte. Mia figlia ha quasi 15 anni, è sempre stata timida e lo è ancora. Lo è ancora, nel senso che la devo accompagnare, se c'è qualunque, cioè non le posso dare nessun compito perché assolutamente non lo fa, cioè anche uscire un attimino, portare fuori la spazzatura, per dire cose semplici. Lei a scuola, va bene, ha iniziato quest'anno la prima superiore, per cui per me era un gradino, insomma, no? Un passaggio importante, va bene, va benissimo a scuola, perché lei fondamentalmente è una di quelle che ascolta, no? Ecco. Per cui di solito, insomma, riesce a ad imparare, cioè ad assimilare. Il suo punto debole comunque sono le interrogazioni orali, cioè per dire, ecco, cioè per farle capire che lei ha comunque difficoltà a interporsi sia con gli adulti, cioè sia con persone adulti, ma anche un pochino, cioè un po' meno, insomma, con quelli della sua età. Capire un attimino anch'io se devo insistere, come devo insistere, perché oramai comunque ha 15 anni, cioè non so se lasciarle passare il suo periodo, cioè se lei ha il suo ritmo, ecco, capire un attimino come mi posso comportare. Gabriella, allora io chiedo alla dottoressa Trince di Alberto Pellai di iniziare a preparare, no, un consiglio, un profilo per la figlia di Gabriella, che ha detto una cosa importante che viene anche sottolineata dalle ricerche. Dottoressa Trinci, rapidamente, Gabriella dice: mia figlia perché ascolta? Ecco, ci sono delle ricerche che dimostrano proprio che una dei così delle doti, dei vantaggi dell'essere timido è proprio che il timido ascolta, il suo cervello cattura quindi più informazioni, quindi un punto a favore dei timidi, dottoressa Trinci. Ma adesso questa non è che vogliamo dare il voto ai timidi, vogliamo occuparci di loro per capire se è un lato del carattere che può in qualche modo costituire una chance, no, per sbocciare, oppure può essere in qualche modo un fardello che avvelena le relazioni. Siamo tornati insieme per occuparci di timidezza, in particolare il caso che affrontiamo ora è quello che ci ha presentato Gabriella, mamma di una ragazza di 15 anni timidissima. Dottoressa Trinci. Dunque, salve. La ragazzina, perché ormai è una ragazzina, c'ha 15 anni, io credo che bisognerebbe un pochino capire da parte della famiglia, mettendosi un po' la mano sul cuore, quanto appunto questa famiglia corrisponda ai requisiti che si dicevano un po', si accennavano un po' prima, di famiglia timida. Quindi quanto anche questa timidezza è un po', come dicono tanti genitori, è un male di famiglia. E poi però a questo punto, a 15 anni, anche valutare seriamente quanto questa timidezza della ragazzina vada ad interferire nelle sue relazioni sociali. Già mi sembra che accennava la mamma, nella scuola la ragazzina può avere problemi perché non riesce nelle materie orali, no? Quindi bisognerebbe capire come questa compressione delle emozioni, perché in fondo poi la timidezza è questa, una difficoltà a alfabetizzare le emozioni, a riconoscerle, abbia portato poi a un'inibizione dell'istinto vitale, degli impulsi più vitali nella ragazzina, e questi potrebbero poi portare a degli atteggiamenti di rinuncia. Quindi io credo che in casi come questi, in situazioni come queste, la famiglia debba valutare bene se non sia anche il momento, visto che si tratta di una between, no? Di una ragazzina che va verso l'adolescenza piena, se non sia il caso anche di andare tutti e tre, babbo, mamma e ragazzina, a parlare con qualcuno, a valutare un pochino insieme. Io ho visto che certe volte nella mia esperienza proprio di ambulatorio, i ragazzini e le ragazzine timide che arrivano si trovano anche sollevati, no? Nell'aver qualcuno che non è la famiglia con la quale loro possono avere qualcosa dentro, no? Qualche difficoltà anche a esprimersi, a trovare in un altro che è diverso da loro un pochino uno spiraglio, una possibilità di apertura. Certe volte bastano pochi colloqui, anche per altre volte no, chiaramente, ma certe volte bastano pochi colloqui per sbloccare un po' lo scacchiere, la situazione. Noi abbiamo per capire il grado e la severità della timidezza, molti autori, noi l'avevamo citato all'inizio, invitano a sottolineare le forme che assume, le esperienze che la innescano, oltre che naturalmente gli effetti sulla quotidianità. La mamma di Gabriella, la mamma di questa ragazzina, dice: non esce neanche a portare la spazzatura. Ecco, ci sono delle situazioni che sono tra loro molto diverse, che vengono comunque considerate timidezza, Alberto. Ad esempio, un conto è essere timidi e avere difficoltà nell'interrogazione orale, oppure ad avvicinare il gruppo di bimbetti sotto all'ombrellone accanto. Un altro conto è invece proprio svolgere delle azioni quotidiane, comuni, dove, come ad esempio portare fuori la spazzatura, portare tirare fuori il cane, andare a comprare il pane. Ecco, mi sembra che ci siano delle situazioni tra loro diverse che possono segnalare qualcosa di diverso. Infatti mi ha colpito questo particolare, perché più che una timidezza, a quel punto mi ha fatto pensare un po' a una sindrome ansiosa, cioè portare fuori la spazzatura non espone al confronto con gli altri, al giudizio con gli altri, alla necessità di relazionarsi con gli altri. E direi, quando l'esplorazione del mondo fuori risulta così inibita da timidezza, oppure da timore, oppure da qualche ansia, ecco, direi che qua serve davvero un po' pensare a un programma di allenamento, cioè ci sono proprio cose che bene fare, bene imparare, ed devono diventare naturali nel nostro percorso di vita. E su questi passaggi bisognerebbe anche domandarsi dov'è il blocco, perché forse chiamiamo troppo genericamente timidezza qualcosa che è qualcos'altro. Io ricordo per esempio proprio una mamma con cui ho lavorato, che era preoccupatissima perché la sua bambina non si staccava mai da lei, soprattutto quando erano in vacanza, in giro insieme, o addirittura se andava a fare benzina. La bambina voleva scendere e stare di fianco a lei quando lei faceva benzina con la pompa della benzina. Poi abbiamo un po' provato a riesplorare bene tutte le cose, e la bambina in realtà si era accorta che la sua mamma aveva cominciato un'altra relazione affettiva oltre a quella con il suo papà, e quindi cambiava tutta la prospettiva, cioè ciò che la bambina stava facendo era controllare la mamma. Allora, intanto, da blogmamma.it, Yolanda, corrispondente delle mamme in vacanza. Allora sì, questo tema diciamo che le mamme l'hanno molto sentito, si vede che appunto ci sono molti bambini timidi in giro, o comunque le mamme pensano che i loro bambini siano timidi. Allora, qui c'è un'altra utente anonima, sì, che mi dice che ha una bambina piccolina sui 4-5 anni e che è timida e vuole fare le cose sempre con una sua con la sua amica del cuore. Sì. Tipo, non so, vado alla festa di compleanno solo se c'è. Dottoressa Trinci, vede, vado in coppia a fare atletica o ginnastica o il corso di danza solo però se io volevo sempre mia sorella. Quando mia mamma ad esempio ci mandava a fare le commissioni, io dicevo, andavo sempre con mia sorella e poi le dicevo parla tu. L'unione fa la forza. Ecco, l'unione fa dire la forza, per cui mi dava grande sicurezza. Poi fino a quando lei si è stufata mi ha detto senti vai tu, e allora io, trovandomi da sola, poi mi sono buttata. Ma dottoressa Trinci, ci sono tanti bambini che cercano proprio nell'amico del cuore, nel fratello, nel cuginetto, sì, un sostegno, e va assecondato questo desiderio, va incentivato oppure bisogna metterci becco? No, dunque io lo trovo, vi dico sinceramente che lo trovo positivo. Oh, bene. Secondo me questi atteggiamenti di alleanze orizzontali, no? Aiutano il bambino, perché mettiamoci nei panni di un bambino piccolo. Un bambino piccolo ha tanti motivi per sentirsi, mettiamo fra virgolette, inferiore. C'ha il babbo e la mamma che sono grandi, c'ha il babbo e la mamma che vanno alle cene, vanno alle feste, vivono, lavorano, lui rimane solo, va al nido, va alla materna, no? È una vita da più piccolo. E questo è una cosa che il bambino deve imparare, no? Si dice che l'Edipo oggi non è più solo il triangolo babbo, mamma, bambino, e quindi le rivalità di cui si parlava in psicoanalisi tantissimi anni fa, ma che appunto è un momento in cui il bambino si rende conto delle differenze, si rende conto del suo ruolo di essere piccolo. Detto questo, fa una gran fatica ad accorgersene, da qui tanti sensi di inferiorità, tante difficoltà a trovare una propria sicurezza. Sono percorsi naturali, quindi l'appoggio che il bambino o la bambina cercano in un proprio simile o nel fratellino più grande, secondo me stabilisce delle relazioni importanti. Sono sì, piccoli passi che vanno verso la definizione, verso l'autonomia, ecco, di relazioni d'amicizia, no? Quindi, certo. Perché metterci becco? Allora, direi di no. Ogni tanto tacciamo. Isabella da Parma, buongiorno. Io vi ascolto molto volentieri, non sono una bambina e non sono una mamma, però a me è successo processo inverso, e quindi mi chiedevo se o sono tornata bambina oppure che cosa è successo. E da bambina sono sempre stata molto vivace, autonoma e sì, piena di iniziativa, sempre bravissima a scuola, bravissima a danza, eccetera. E ho trovato dei genitori che tutto ciò, che splendidi per tanti versi, ma tutto tutte le volte che io avevo delle eccellenze e la seguivo anche, più ero anche bella, quindi mi schiacciavano, mi facevano intanto sulla bellezza, non c'è storia, non ha nessuna importanza nella vita, questo è il messaggio, anzi, quasi una colpa, sul fatto di essere brava è il tuo dovere. A poco io sono diventata grande e ho cominciato a essere timida e a sentirmi sempre inadeguata. Se uno mi guarda, mi dice che sono bella, mi fastidisco, e io, se sono brava e lavoro, sono docente universitaria, eccetera, eccetera, mi sembra mio dovere di non aver fatto mai nulla, mai a sufficienza. Quindi in situazioni dove trovo anche persone aggressive nel lavoro si incontrano, anzi, meno ne sanno, più sono aggressive, io mi intimidisco e mi si blocca e non riesco nemmeno a rispondere, mi viene il sudore e questo naturalmente va a mio discapito, quindi autostima non so dove sia, anche perché io penso qualcosina di sapere, tuttavia un conto razionale si vede che nel mio intimo penso di non sapere, sono diventata timida da grande. Timida, non so, una timidezza. Sì. Dottoressa Trinci, Isabella, è diventata timida, ma forse la timidezza l'ha covata, no? Nel corso degli anni, e poi paf, esplosa. Ma non è mica detto, sa, può darsi che davvero Isabella fosse una ragazzina anche intraprendente. Io lì credo che davvero ci sia stato un problema di stile educativo dei genitori, di un atteggiamento familiare che ha accentuato anche questi normali insicurezze che ci sono nei bambini, no? Cioè mi sembra sia stata esposta a quello che gli psicoanalisti veri direbbero non è stata sostenuta da un sano narcisismo di vita, perché essere belli per un bambino è importantissimo, sentirsi dire come sei bella, ogni scarraffone è bella a mamma sua, no? Certo. Perché lei non è stata detta questa cosa e quindi possiamo dirglielo noi adesso. Certo, perché che cosa ecco, perché tira anche un po' su. Isabella diceva la mia autostima è a zero. Ecco, si può recuperare, Alberto? Sì. Io credo che proprio questo è un po' il nucleo di tutta la faccenda, cioè effettivamente credo che Isabella abbia avuto un attacco potentissimo nella fase di costruzione del suo personale modello di autostima e quindi in questo momento si ritrova proprio con una bassa autostima su cui si può lavorare. E credo tra l'altro che un altro aspetto molto importante possa essere che proprio come le relazioni importanti, quelle significative di quando era bambina, l'hanno un po' ridotta a doversi riadeguare sulla propria autostima, una relazione affettiva importante da adulta può fare il lavoro contrario, cioè nel momento in cui dentro una storia d'amore Isabella riesce a riessere vista con gli occhi di un altro che la ama veramente. Quindi, Isabella, per quello che realmente è un fidanzato che ma la quello ami, credo tanto. Che sia importante, e infatti non condivido, ci stanno arrivando un po' di messaggi che a volte ci dicono dite che è un disturbo evitante della personalità, dico per esempio Alina da Salerno, ma ce ne sono arrivati altri. Io non credo che per Isabella quello sia il problema, lei è una docente universitaria, sa quello che fa, non ha quel problema, ha proprio un problema di autostima, quindi è a parte da quello di cui stiamo discutendo oggi, cioè timidezza. Lei è proprio diventata inadeguata, si percepisce come inadeguata, parola che ha usato lei nel narrarsi ai nostri microfoni. Antonio da Roma, buongiorno. Pronto? Sì, Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io volevo dire che intanto Radio 24 è la mia prima memorizzazione, bravo. Sento sempre in macchina. E questo la dice lunga, Antonio. Ecco, bravo, infatti, mille punti. Varie trasmissioni. Volevo dire, raccontare un episodio del passaggio all'adolescenza che è stato insomma importante ai fini di una, diciamo, piccolo problema di timidezza all'inizio, sì. Poi superato. Perché tornando a casa dai giardini dove andavo sempre a giocare a pallone anche con ragazzi più grandi, allora era un po' sostituiva il dopo scuola, il giardinetto, sì. E quindi si faceva questa esperienza appunto di socializzazione con altri ragazzi anche più grandi. Tornando a casa per il pranzo, un ragazzo senza nessun motivo, poco più grande di me, che insomma all'epoca avevo 11 anni, mi diede un pugno sul naso facendomi uscire un poco di sangue, insomma non è che ha avuto molte conseguenze, però sono tornato a casa, insomma, e devo dire che ho rielaborato questo episodio. Innanzitutto mi ha insegnato cosa che già insomma i miei genitori mi avevano sempre detto e insegnato con la loro vita, prima di tutto, che insomma l'amore è la cosa più importante e la violenza gratuita in tutte le sue forme è assolutamente un comportamento da evitare. E quindi tant'è che insomma io credo nella mia vita di non aver alzato mai un dito nei confronti di nessuno. Però ecco, volevo dire che appunto questi episodi della fanciullezza lasciano degli imprinting che comunque, come anche dicono, insomma, per esempio voglio citare Alice Miller, che appunto è stata una psicologa che è morta recentemente, molto sì, sensibile al problema della violenza, eccetera, e lasciano degli imprinting che comunque possono determinare poi appunto delle piccole situazioni di disagio che poi però ovviamente poi si superano e quindi con l'amore delle persone care. E poi, insomma si cresce quindi, anche, si cresce, si no? cresce a volte con un po' di fatica, ma si cresce. Antonio, grazie. Andiamo a Denise da Milano. Buongiorno Denise. Buongiorno, ciao a tutti, grazie per le tantissime cose utili che state dicendo, anche se sono un po' condizionanti qua nell'esporvi il problema, no? Io ho una bambina di 4 anni e mezzo, Matilde, che ha cominciato ad andare alla scuola materna a settembre, scuola materna pubblica, tanti bambini, moltissimi della sua età, una classe eterogenea. Lei non ha avuto nessun problema di inserimento perché è una bambina oltretutto molto solare, luminosa, sì, molto generosa oltretutto con gli altri bambini nel darsi, nel cercarli, nel condividere. Improvvisamente verso febbraio ha cominciato marzo, in coincidenza di dolori segnalati ai fianchi e di non chiara natura tutt'oggi, perché abbiamo fatto un sacco di accertamenti ma non ha problemi, sì, di nessun tipo, però ha cominciato a sviluppare questa, io non so se chiamarla a questo punto timidezza, inadeguatezza o insicurezza in base a quello che ho sentito. Sì, questi tre termini indicano un po' delle situazioni tra loro diverse ma che a volte si intrecciano. Alberto, cosa si può rispondere a Denise? Probabilmente sono rimaste proprio intrappolate delle emozioni, perché c'è un prima e c'è un dopo, in mezzo c'è questo evento, una diagnosi che probabilmente vi ha anche spaventato tanto voi genitori, un passaggio problematico, e io in questo senso credo che la bambina abbia probabilmente bisogno di raccontare, di dare parole ad emozioni che non è riuscita a buttare fuori, sono rimasti dentro e l'hanno un po' bloccato. Io direi che quello che ci racconta la nostra ascoltatrice non è un problema di timidezza, ma è un disagio emotivo associato a un evento ben specifico che voi avete identificato. Io voglio salutare la mia amica Claudia Penoni, attrice, comica di successo. Ciao Claudia! Ciao Nicoletta! Ciao. Ciao! Senti Claudia, io sono molto contenta che tu ci sia venuta a trovare, perché abbiamo visto che la timidezza si manifesta in età, no, diverse, c'è quella dei bambini piccoli, poi c'è quella degli adolescenti, e anche tu sei stata timida, ma nell'adolescenza è capitato qualcosa. È successo che... Cioè, tu sei un po' al contrario, Sì, allora da bambina parlavo pochissimo, rischiavo di sembrare più intelligente, no? I bambini che parlano meno delle volte risultano quasi più affascinanti, quindi i maestri, i professori si avvicinano cercando di capirti. In realtà era timidezza, parlavo poco ma vedevo e percepivo tutto come gli altri bambini, sono certo, appunto un po' timidina. Intorno ai 14-15 anni, quindi l'adolescenza, si sono aperte tutte le valvole e ho cominciato a tirare fuori tutto quello che non era venuto fuori prima, quindi sette in condotta e via dicendo, quindi ci può essere il cambiamento, insomma per me è stato così. Per te l'adolescenza mi ha dato modo di tirare fuori, di farmi coraggio e di cominciare a relazionarmi con gli altri senza paura. Quindi a volte è proprio nell'età critica, quella dell'adolescenza, che i timidi iniziano a ballare o meglio a parlare. Per me è andata così, ho avuto la fortuna di avere una mamma che quando ero piccola, mia mamma era a casa, quindi molto presente, mi faceva tirare fuori le cose lei, tornavo da casa, voleva sapere, mi faceva parlare per abituarmi perché un po' sapeva. Però non me l'ha mai detto, quindi siccome seguivo la trasmissione, sì, è stata una mamma intelligente, non mi ha mai fatto pesare, non mi ha mai detto quello vedi, che lo ero. Vedi mi ha fatto parlare, mi tirava fuori le cose e con lei ci riuscivo perché era la mamma, quindi insomma con lei tiravo fuori tutto. Bene, bene, vedi queste mammette che di solito finiscono sempre colpa della mamma e colpa della mamma, invece la mamma di Claudia l'ha indovinata, insomma, sì, ogni tanto sì, quando sì, facciamo giusto lo indoviniamo. Senti Claudia, però tra l'altro la timidezza tu la porti forti in alcuni dei tuoi personaggi e sottolinei un lato che hanno i timidi, secondo me, molto particolare, che è quello della lucidità, al tempo stesso unita a questa, così, se vuoi, immediatezza, perché dal timido non te lo aspetti. Penso al tuo personaggio, quello che io amo in modo particolare, no, Kripstak. Sì, del cinema polacco, è vero, ma perché c'è il contrasto immediato. Tu vedi una persona, dico persona, è un personaggio che è statico, quindi che trasmette incomunicabilità, immobilità, e via dicendo, non ti aspetti una frase tanta sagacia, tanta ironia, ma perché poi dentro di sé c'è tutto, solo non lo butta fuori spesso. Riesce a farlo col suo compagno dopo anni di convivenza, quindi con Petrektek sì, ce la fa, magari quando è fuori un po' meno la però crista, possiamo, no? Possiamo dire ai timidi, coltivate l'ironia, perché comunque sì, poi quando la tirate fuori avete una marcia in più. Tra l'altro io devo salutarvi e voglio ricordare, tu oggi sei con Claudio Cevoli, un'altra mia passione, me lo saluti? Claudio Cevoli giù a Roncofreddo, cioè vicino a Cesena questa sera. Senza, e sono invitati anche i timidi per farsi, certo, una risata. Certo, con i quali poi chiacchiereremo molto volentieri, volentieri, scambiamo le impressioni. Allora un abbraccio a Claudia Penoni, saluto Yolanda, la dottoressa Trince ed Alberto Pellai. Io ho due notizie sulla pagina di Essere Benessere per voi oggi. Una riguarda la ricerca, è stato scoperto un interruttore molecolare capace di spegnere il diabete, siamo ancora alla ricerca di base, e poi un esercizio per piedi stanchi e affaticati, insomma una chicca per voi, perché vi voglio bene, a domani. Essere e benessere.